Cronache Meridiane di Gianluca Nicoletti. Bernadette, vieni via! Cosa stai facendo? Bernadette! Madonna mia, forse l'asma l'ha uccisa. Oh, sciocchezza, se fosse morta sarebbe lunga distesa. Hai mai sentito che un morto stia in ginocchio? Allora perché non parla? Cosa facevi là tra le rocce, inginocchiata? Non avete visto nessuno? Chi? Bene, ho visto una signora, tutta vestita di bianco. Una signora? Aveva una cinta azzurra e una rosa d'oro su ciascun piede. Non ho mai visto niente di più bello in vita mia. Oh, storie. Che cosa farebbe una bella signora in un simile mondezzaio? Non so. È chiaro che Lisa, dall'audio... La lettura della visione di Bernadette fa parte di un film degli anni 40, del 43, film dedicato appunto alla Madonna di Lourdes. Sono passati anni, continuo ad avere un grande rispetto, anche una grande ammirazione e curiosità per tutti i fenomeni di apparizione. Sono dei fenomeni ai quali non può essere data una spiegazione razionale, una spiegazione scientifica. Uno può crederci o non crederci. Se non ci crede, non è che per questo deve essere considerato un apostata. Se ci crede, è buon per lui, ha una chance in più per coltivare il proprio spirito. Fatto è che pensavo che in realtà fosse comunque quello delle apparizioni mariane un fenomeno grande di fede popolare, di culto, pellegrinaggi, persone in situazioni molto difficili che appoggiano la loro speranza in una sorta di collettiva manifestazione di fede, quindi facendo un pellegrinaggio in un luogo in cui storicamente, secondo tradizione, è apparsa una Madonna. Il Papa stesso si è pronunciato recentemente sulle apparizioni mariane, soprattutto sul fenomeno di Medjugorje, dicendo una frase che in sé ha un retroterra di pensiero molto consolidato e serio. Papa Francesco, il gesuita Papa Francesco, dice: la Madonna non manda emissari. E quindi questo dovrebbe far capire, naturalmente c'è stata la rivolta, perché dietro Medjugorje c'è un enorme meccanismo di persone che si muovono, c'è una radio apposta, che è Radio Maria, che di questo parla, che ha dei bollettini, come noi mandiamo i bollettini del traffico, loro hanno i bollettini delle apparizioni. Non lo dico per il ridere, ma lo dico che in realtà la diffusione mediatica di questi fenomeni mi fanno un po' perdere quel senso di rispettosa osservanza che ho sempre avuto. Poi oggi leggo sul giornale un reportage, un bellissimo reportage devo dire, di Stefano Filippi, inviato a Ischia, sulle varie Madonne. Abbiamo scoperto che in Italia siamo un popolo di visionari di Madonne, e ce ne stanno veramente tonnellate. Sto guardando i luoghi dell'Italia dei miracoli, da Paratico Brescia, la Madonna dell'Amore che apparirebbe ogni mese dal 94 a un veggente, e un quadro mariano avrebbe lacrimato nel 2005-2007, Civitavecchia, la famosa Madonnina che lacrimava sangue a Civitavecchia, ci sono state un'infinità, la televisione si è alimentata di questo per mesi, Casa Gregory, il veggente, l'analisi del sangue, il sangue in realtà è un sangue maschile, ma non dice nulla, il vescovo alla vista piange, ci hanno fatto anche lì un culto, via dicendo. A Velletri appare alla fonte dell'acqua donzella, appare il primo giorno di ogni mese. A Ostina, Firenze, apparizione alla Madonna Riconciliazione. A Manduria, Taranto, apparve nel 92 e il 2005, piangeva sangue anche in questo caso. A Cosenza, Piane Crati, vicino Catanzaro, appare la Madonna. Leggo sempre dal giornale, le due paginone a corredo del pezzo di Stefano Filippi. A Monfenera, Treviso, nell'86 Paolo Albertini, a visione della regina degli angeli custodi, pubbliche del 96. A San Bonico Piacenza, un venditore di fiori celeste Orbetelli ostina di vedere la Madonna ogni giovedì sera. A Messina, Giampilieri Marina, dalla fine di ottobre 2014 una statua della Madonna addolorata verserebbe lacrime di sangue. Avola, Siracusa. La Madonna, ogni quando appare, appare una signora di 96 anni, comunque anche qua c'ha una sua scadenza. Insomma, ha tanti impegni la Madonna, vedo che ha un'agenda molto, molto ricca di apparizioni. E dove non appare, lacrima sangue. Ora, questo non vuole essere il grido di uno che prende in giro la fede popolare, però in un momento in cui si riposizionano anche le convinzioni, in cui c'è un grande, grande bisogno che l'Occidente riaffermi una sua identità anche religiosa, questo perlomeno viene detto da più parti, di fronte all'attacco che viene dall'Islam, e lì sono molto radicali, hanno poche idee ma precise e indiscutibili, forse è il caso che di fronte a questo l'atteggiamento che già ha iniziato il Papa molto deciso venga anche da parte delle persone che hanno una consolidata, comprovata e ogni giorno praticata fede. 800 24 00 24, ma voi ci credete alla Madonna che appare in tanti posti, in tante scadenze orarie, con tanti fenomeni di sangue lacrimato? Ma perché la Madonna deve lacrimare sangue? Ma quanto sangue deve buttare la Madonna? E soprattutto la Madonna, che è la Madonna di tutti, che non soltanto tanto della Terra, ma dell'infinità di galassie, dei pianeti, perché deve concentrare tutte le sue apparizioni tanto bene in Italia e tanto bene in due o tre regioni, anzi no, sono parecchie regioni, in almeno 4-5 regioni d'Italia, manco tutte? Perché non è apparsa mai una Madonna in Umbria? Perché non è mai apparsa una Madonna nelle Marche? Perché non è apparsa mai una Madonna in Basilicata? Ecco, ad esempio, perché alcune regioni sì e altre no. 800 24 00 24. Questo pomeriggio la mamma si è presentata come regina e mamma della pace. La mamma era tutta vestita di bianco, aveva anche il capo coperto da un leggero velo bianco che le arrivava fino ai piedi. Questo velo era tenuto da tantissimi angeli che la circondavano e le sue mani erano aperte. Dalle mani uscivano raggi di luce, bianca, azzurra e rosa, che invadevano l'intero bosco e ricoprivano come prime i capi dei presenti. Figli, figli miei, grazie che anche quest'oggi avete risposto numerosi a questa mia chiamata. Vi amo, figli, vi amo immensamente e vi prego ancora una volta di aprire i vostri cuori. Pregate, figli, pregate e non dimenticate mai di mettere Dio al primo posto nella vostra vita. Non fatelo solo nei momenti di bisogno. Sì, che poi questi messaggi alla Madonna sono tutti uguali da anni. Pregate, pregate, state buoni, state lì, attenzione, arriveranno grandi cose. Ogni tanto prevedono disastri. Questa è la Madonna di Ischia. Avevano previsto le due veggenti, Angela e Simona, l'11 settembre. Appaiono di fronte a una piccola, stanno sempre di fronte a una piccola, stanno sempre, hanno le visioni di fronte a una piccola statua della Vergine a cui c'è una grande folla. C'è la foto al centro del giornale in cui le veggenti stanno nella tipica posizione del veggente, a mani giunte, con lo sguardo rivolto verso un punto indefinito, che in cui appare la visione mariana, gli altri non la vedono, ma lei la vede. 800 24 00 24, esiste un atteggiamento che non sia quello di colui che ride, che deride questi fenomeni, non sia nemmeno quello che se la beve tutta, che in effetti veramente, esattamente, ci sia una sorta di Madonna pellegrina che appare con la valigia in mano, come appunto dice il Papa, a richiesta in date precise, in giorni precisi, come se fosse un medico condotto che ha tutta una serie di pazienti in giro per una sua provincia. E perché poi la provincia delle apparizioni è così ristretta? Ho visto mamma tutta vestita di bianco, con i ricami d'oro sul manto e una cinta d'oro in dita, i piedi scalzi sul mondo, e sotto al suo piede destro c'era un antico nemico. Mamma era immersa nella luce e il suo volto aveva un'espressione dolce, ma i suoi occhi erano tristi. Sia lodato Gesù Cristo. Eccomi, figli, ancora una volta in mezzo a voi a chiedervi preghiera. Preghiera per la mia madre Chiesa, per i miei amati. 800 24 00 24, questa è l'altra veggente della Madonna del Bosco di Zaro, la Madonna ischitana, in questo caso lascia un suo messaggio. Probabilmente hanno scritto fiumi di letteratura sul senso profondo delle apparizioni mariane, sia dal punto di vista laico che da un punto di vista profondamente credente, perché ho amici credenti che credono veramente che si manifesti attraverso la mediatrice madre di Cristo una presenza che non è terrena. 800 24 00 24. Paolo. Sì, salve, buongiorno. Volevo rendervi partecipi di un mio ricordo dei tempi dell'università, quando la dottoressa Milani... Che università era Paolo? A Padova, lettere, frequentai un corso di letteratura delle tradizioni popolari, ma la docente, la professoressa Milani, purtroppo ora scomparsa, esperta di tradizioni popolari, organizzò buona parte, quasi metà del corso, che era annuale all'epoca, quindi almeno 3 mesi, a parlare con gli studenti delle Madonne che piangono. Beh, interessante, è un fenomeno molto interessante. Molto, molto, perché era strano vedere come gli stessi studenti universitari, e noi eravamo quasi cavie in quel caso, erano portati a credere alle Madonne che piangevano. La conclusione fu assolutamente, secondo me, illuminante, perché lei alla fine di questo corso concluse: io non nego che possa succedere che una Madonna piange o che appaia o tutto il resto, ma è strano che l'essere umano sia portato di fronte a fenomeni di questo tipo a darsi la spiegazione meno probabile, cioè che sia la Madonna che piange. Ma noi siamo sempre portati a credere alla via irrazionale, perché la via razionale è la più semplice, quella che può essere più riempita di significati non verificabili. Questa mattina ho fatto un video per il mio giornale in cui parlavo dell'ennesimo medico Santone, che è una dottoressa sarda che cura il tumore con i fiori di Bach, con una terapia verbale, non so bene che. E ha moltissimi proseliti e sono tutti convinti che piuttosto che una via scientificamente comunque con una rilevanza scientifica che non dà la sicurezza di guarigione, la dottoressa che ti cura con i fiori di Bach, è preferibile comunque dargli ascolto. Noi siamo sempre la via sciamanica, per la via magica. È bene pensare e immaginare che ci possano essere delle statue che realmente piangano. Io nemmeno escludo che possa accadere per circostanze che in questo momento non abbiamo strumenti per verificarli. Mi fa un po' più pensare che una visione dell'assoluto, una visione della trascendenza, si debba necessariamente fermare e avere le sue prove in una statuetta di terracotta che lacrimi sangue. Luca, buongiorno. Buongiorno. Ecco, Luca è caduto in questo momento, vediamo se riusciamo a recuperare Luca. Intanto noi abbiamo diamo la linea alle informazioni del traffico, visto che è già da un minuto che devo darla, e riprendiamo questo interessante dibattito sulle Madonne lacrimose e sulle Madonne sanguinanti tra un istante. Melog, cronache meridiane. Io sono venuta qua per provare a dirvi tutto quello che Madonna vuole da noi, quello che lei mi dice che vi devo dire. Non lo so se in mezzo di voi ci sono questi che sono per prima volta in Međugorje. Ivanka e io, come due ragazzine di 15-14 anni, abbiamo voluto stare un po' da sole e siamo uscite fuori dal paese e abbiamo passeggiato sotto la collina che oggi la chiamiamo Collina di Parizioni. Abbiamo parlato. Questa è una delle veggenti di Međugorje, che è l'argomento che sento più drammaticamente ambiguo nei confronti rispetto a quello che aveva detto il Papa. Il Papa pare che abbia anticipato quelle che sono le conclusioni di una commissione che sta lavorando in Vaticano per esprimersi una volta per tutte su questi grandi fenomeni di massa. Un giornalista molto, molto devoto, biografo di papi come Vittorio Messori, dai microfoni di Radio 1, ha dato una specie di avvertimento al Papa: attenzione, se sconfessiamo i miracoli e le apparizioni creiamo uno scisma nella Chiesa, perché sono i luoghi, i maggiori luoghi di scaturigine di conversione di fede. Se diciamo che la Madonna non è vero che appare, o perlomeno che i veggenti sono semplicemente dei visionari, che non bisogna dargli ascolto, che la Madonna non appare a comando e secondo una sua agenda settimanale, rischiamo che la Chiesa si spacca in due: quelli che vanno dietro comunque ai fenomeni e quelli che in realtà hanno posizioni più legate a una personale vita interiore. Maddalena, buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo dire la mia testimonianza. Io non ho mai visto veramente la Madonna e pregherei a Dio che vederla. Sì. E quindi? Senta, io le volevo dire qualcosa di soprannaturale, cioè, perché io sono una ragazza trapiantata e sono stata malata dall'età di 6 anni. Sì. Ho 40 anni, grazie a Dio la Madonna, non potevo avere bambini perché avevo un'epatite B delta. Sì. Io ho avuto la bambina con tutto contro i medici, io mi sono affidato a Dio e alla Madonna. Lei ha pregato, è convinta di aver avuto un aiuto soprannaturale nella sua patologia. Certo, per me non è una convinzione, è una certezza, perché ogni giorno che prego la Madonna ho risultati su tutto, mi creda, su tutto. E volevo dire veramente di pregare tanto, tanto per tutte queste cose che stanno succedendo. Ma non si metta a piangere però, mica non è un dramma. Lei ha una fortuna rispetto a chi, al suo interlocutore, sono io in questo momento, che è più scettico. Lei ha trovato una sua serenità e una sua maniera per darsi delle risposte. Sono molto invidioso della sua certezza, ma la rispetto, sono contento. Io la ringrazio e veramente voglio dire a tutti i radioascoltatori, pregate. Sì, vabbè, adesso gli ascoltatori fanno quello che vogliono, pregate. L'ha detto, un altro dice magari andate a donne e bevete champagne, ognuno può dire quello che vuole, non è un problema, ognuno ha varie visioni della vita, non ce n'è una sola e non ce n'è una che può sovrapporsi alle altre per obbligo. Anna Maria. Buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo semplicemente dire questo, io sono credente e praticante, sulle apparizioni, su queste cose sono sempre un po' scettica, poi quando ci sono questi fenomeni di massa rimango molto perplessa, però se noi guardiamo i risultati, allora io vedo che queste persone sono serene, diventano più buone, fanno cose migliori, per cui a questo punto dico vabbè, viva Dio, ben venga. È quello che dice Messori, dice non stiamo a spaccare il capello se veramente la Madonna appare o se veggenti vedono, o ci sono, diciamo, la Madonna che è ubiqua, essendo un essere divino logicamente può anche essere ubiqua. Vediamo il fatto che il vero miracolo, come dicono sempre, il vero miracolo è però che la gente va lì, ritrova la fede, sì, e risegue dei cammini. È un po' la mia idea. La fede ha bisogno comunque di appoggiarsi su qualcosa di fantastico, ha bisogno di effetti. Umano, certo, la fede ha bisogno degli effetti speciali quando è fede popolare. La fede più elaborata del mistico, dello studioso, dell'anacoreta, del santo, magari si appoggia su un cammino interiore. La fede popolare ha bisogno di effetti speciali. Giovanna. Buongiorno, io volevo dare una mia testimonianza. Allora, io non ho visto Madonne che piangono, però sono stata testimone di un fenomeno nel trentennale del miracolo delle Tre Fontane. Le Tre Fontane è il santuario che sta a sì, Roma. Sì. Meta di pellegrinaggi e tutto. Sì. Esattamente. Allora io abitavo là vicino, nel quartiere si era sparsa la voce. Ma dove c'è anche la scala che si fa a ginocchia, quella? No, quella sulla via Laurentina, di fronte. Sì. E effettivamente. Ah, perché la testa che è rimbalzata tre volte, sono venute Tre Fontane. Così. No, là di fronte a quello della testa. Non lo so bene. No. E cosa c'è lì? Santuario. E lì c'è la Madonna. Là dicono che è apparsa la Madonna. Nel trentennale ci fu un fenomeno particolare. Ovviamente io, stando là dentro, là vicino, abitando all'Eur, ci sono andata a vedere. E cosa accadde? Accade, è chiaro che io ho dato poi una mia interpretazione a questo fenomeno, perché era un fenomeno di luci. Me lo dica però, perché non lo so, cosa successe, non mi ricordo. Successe una cosa particolare, nel senso che era come un grande cerchio che partiva dal basso, andava verso l'alto tutto colorato e si metteva sopra la chiesa, aveva uno spessore e irradiava dei raggi. E io vado a pensare, posso dire una cosa? Io sono andato a Međugorje una volta, ma tantissimi anni fa, penso più di 30 anni fa, agli inizi, e anche lì tutti guardavano il sole, vedevano il grande, perché chiaramente uno guarda il sole fisso, poi vede un disco, anche la sera vai per casa, vedi questo disco. Non poteva essere un fenomeno legato, diciamo, al fatto che tutti guardassero il sole e rimaneva impresso nella retina. Guardi, io poi ho una solida preparazione scientifica. Quindi lei ha visto proprio una cosa che esce fuori da... Io ho visto qualcosa a cui io ho dato una mia interpretazione, ovviamente. Difficilmente racconto questa cosa perché chiaramente non mi crede quasi nessuno, comunque non mi va di raccontarla, però il discorso è che come posso dire, ho visto questa cosa, poi ho dato una mia interpretazione. E qual è la sua interpretazione? Ma là l'interpretazione doveva essere qualcosa come fosse un'ostia, diciamo, Lei aveva dato già la lettura simbolica, diciamo. Però io ho dato quella lettura, chiaramente poi intorno a me c'è chi vedeva anche cose che in realtà non tipo, c'erano assolutamente. Cosa vedevano gli altri? Tipo che vedevano, posso dire, il volto di Gesù Cristo, eccetera, ma non esisteva proprio che si vedeva il volto di Gesù Cristo. Comunque, diciamo, un fenomeno collettivo di... Diciamo che era un fenomeno particolare che, come posso dire, io ho dato una mia interpretazione, difficile poter pensare che era un fenomeno naturale, però ovviamente siccome noi non è che conosciamo tutti i fenomeni naturali, poteva anche essere un fenomeno naturale, però di fatto era una cosa particolare. Lei dice una preparazione scientifica, nel senso se è una professoressa, un insegnante? No, ma nel senso che io in periodo stavo all'università, ho fatto una facoltà scientifica, sono quindi non è una persona, una famiglia, diciamo, di gente che quindi fosse stato diciamo un fenomeno atmosferico l'avrebbe capito. Probabilmente l'avrei capito, ha capito. Va bene, Giovanna, prendo atto la sua testimonianza. Io voglio solo, ero solo curioso di capire la percezione nel campione che ho a disposizione, che è il pubblico di 20 minuti scarsi all'ora del desinare. Francesco, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a lei. Niente, io volevo solo dire una piccola cosa che mi è venuta in mente. Io sono laureato in filosofia e studiando mi è venuta in mente questa cosa, che secondo me l'idea che Dio mandi questi messaggi, questi miracoli, queste madonne che piangono, non sia compatibile in realtà con l'idea del libero arbitrio. Cioè, se Dio ci ha donato la capacità, diciamo, di disegnare il nostro destino come noi preferiamo, non può venirci a dire ogni tanto esisto qua, guardatemi, state mica buoni. Mica no, vabbè, mica un ordine, o se non lo fai muori. Di ogni tanto magari dà dei segnali, ma secondo me non è compatibile con un'idea di libertà. Ma è come uno spot, libero, è come uno spot, immagini che la vita è un film e qui sono gli spot che manda il Padre Eterno nel corso del film, ma mica lei è obbligato a comprare il prodotto, sono informazioni per gli acquisti. Io sono obbligato a comprare il prodotto, perché lui mi dice se non compri il prodotto poi vai all'inferno. No, le apparizioni in questo sono molto più soft, normalmente non dico mai nulla di finale esaustivo, dicono pregate, fate del bene, vogliate bene, ai tempi della guerra fredda ci ha pregate per la Russia, o poi ai tempi diciamo, perché era il paese degli atei e dei mangiapreti prima della guerra fredda, non dico stupidaggini, ai tempi del socialismo reale, oggi magari dicono pregate in maniera più indifferenziata, siate buoni, fate del bene, dicono sempre cose che alla fine non fanno male a nessuno, lei dice di fare cose che però. Allora, Arturo, buongiorno. Buongiorno signor Nicoletti, sì. Io sono Arturo, sono un credente, sì. Non sono cattolico, sì. Volevo dire questo. Credente di cosa allora, per capire? Evangelico. Ah, evangelico, vabbè sì. Vabbè, voi non ci credete alla Madonna, per voi non c'è niente. Ma devo dire la verità, la Madonna non ha alcun fondamento biblico. Ma quello la per lei però. Però. E la Madonna sono due cose molto diverse. Adesso scusi, lei si è chiamato per fare il suo predicozzo, non era quello che mi interessa. Lei è evangelico e crede altre cose. I cattolici apostolici romani, per loro è fondamentale la Madonna, per altri non è fondamentale né la Madonna, per altri ancora è nemmeno fondamentale che esista Dio. Il bello è che però ognuno possa esprimere serenamente la propria opinione. A domani.